Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Buongiorno e buon sabato. Oggi riascoltiamo alcune delle interviste che abbiamo fatto agli esperti che sono intervenuti nell'appuntamento del mattino di Obiettivo Salute insieme a voi, in diretta ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 11. Ascoltiamo insieme. Il nostro numero per rimanere distanti ma uniti, per rimanere in contatto, 349-238-6666. È sempre a vostra disposizione, così come sempre la nostra mail obiettivosalute@radio24.it e soprattutto la pagina Facebook del programma. Mi raccomando, venite a trovarci, ci sono tantissimi spunti, post dei nostri esperti, dalle ricette del nostro medicuoco quasi cuoco, alle coreografie, alle immagini che ci portano lontano, i consigli dei nostri coach e tanto altro. Ma intanto vi chiedo, come sempre, di partecipare, di suggerirci spunti, ideuzze per il nostro vero e falso che abbiamo inaugurato proprio questa settimana con gli esperti della SIMIT. E in linea con noi abbiamo il presidente della Società Italiana Malattie Infettive Tropicali, il professor Marcello Tavio, che è anche direttore dell'unità operativa malattie infettive degli ospedali riuniti di Ancona. Professor Tavio, buongiorno e bentornato. Buongiorno e bentrovata, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Professore, la ripresa si avvicina, ma la nostra vita non tornerà quella di prima, insomma ci vorrà tempo, ma abbiamo la speranza che il virus riduca la sua virulenza e la sua contagiosità? Che cosa ci insegnano, che cosa vi insegnano la storia delle pandemie passate? Il parente più stretto del Covid-19 è la SARS, che come tutti sanno aveva avuto la sua storia nel 2003-2004 e poi a un certo punto è sparita dalla circolazione, seguita su qualche anno dopo dalla cosiddetta MERS, che era una SARS nel Medio Oriente, e adesso c'è il Covid. Appartengono alla stessa famiglia di virus e a volte hanno le stesse logiche. Questi virus non tendono a diffondersi come i virus influenzali. A un certo punto, probabilmente perché hanno un ospite in cui si trovano bene, ritornano nell'ospite e smettono di suscitare grandi pandemie nel genere umano. Questo è quello che abbiamo imparato finora. È un nuovo virus, potrebbe insegnarci una storia diversa. Per questo dobbiamo essere molto prudenti e continuare a dare tempo al virus di sparire, difendendoci con le norme che tutti ormai hanno imparato ad applicare con una certa diligenza, direi. Ecco, dovremmo, professore, seguire anche a partire in modo molto ancora sempre più rigoroso a partire dal 4 maggio. Sono una sorta di scudo le mascherine e la distanza di sicurezza di circa due metri, professor Tavio, ci allontaniamo ancora di più? Ma io direi questo, lei ha detto una cosa molto bella prima introducendo la trasmissione, distanti ma uniti, restare distanti ma uniti. Allora anche in questo caso restiamo distanti ma uniti nella lotta al Covid-19, abbiamo un motivo per stare leggermente distanti, quindi si tratta, in realtà la distanza igienicamente utile non è di metri e metri, è un metro e mezzo, due al massimo. L'ulteriore protezione viene dalla mascherina, che aiuta ma non sostituisce tutto quello che è il comportamento igienico appropriato, che è fatto di attenzione alle mani e alle mucose. Quindi tutto questo insieme davvero forma uno scudo non invincibile ma molto potente, che ci permette di vivere una vita sociale, direi, soddisfacente. Per un periodo che è difficile prevedere, però tra restare rinchiusi in casa come siamo adesso e avere invece la possibilità di uscire e con queste precauzioni avere una vita sociale soddisfacente, io scelgo la seconda. Che cosa sarà importante, professor Tavio, secondo lei, per il cittadino attenzionare nella prima settimana di ripresa? Ma direi dei comportamenti di eccessiva euforia, se vogliamo. quindi qualcosa che ci spinga a fare, ad assumere dei comportamenti che abbiamo dovuto reprimere per settimane. Ecco, questo non possiamo buttarci le braccia al collo, non possiamo andare per le strade a braccetto, ok. Questo è il prezzo che dobbiamo pagare a quello che resta dell'epidemia, che è una parte importante, perché la gente deve sapere che il giorno in cui si riapre parzialmente non vuol dire che il virus se n'è andato o se ne sta andando. C'è una coda consistente e c'è il rischio di un colpo di coda. Ma tutto questo lo potremo affrontare con molta più serenità, perché non verremo più presi alla sprovvista come all'inizio. Allora, arrivano i messaggi e le richieste dei nostri amici, 349-238-6666. Allora, è vero che gli indumenti devono essere lavati a 60 gradi? Questo è un po' un tema che ricorre, perché noi siamo diventati molto scrupolosi per l'igiene. Per quelli delicati, professor Tavio, insomma, la domanda è sono i 60 gradi che ci garantiscono di igienizzare i nostri indumenti? Ma guardi, diciamo questo, io non sono un esperto, lo dichiaro subito, nel senso che ok, i 60 gradi vanno evidentemente bene, ma il concetto fondamentale è quello che noi dobbiamo lavare gli indumenti che sono stati a contatto con persone malate, a maggior ragione se sono persone malate oppure a rischio di questa malattia. Quindi un comportamento indiscriminato forse non è necessario con gli indumenti, non solo le mani, ecco, gli indumenti. Ecco, soprattutto magari una grande cautela, una particolare cautela devono averle le persone che in famiglia hanno una persona che è risultata positiva. Esatto. E quindi va tenuta. Certo. Professore, è vero, ci scrive un altro ascoltatore, che se negativo al tampone Covid-19 può invece risultare positivo alla TAC, quindi il tampone non è attendibile al momento? Ci scrive Alessandro. Alessandro tocca un tasto dolente della situazione attuale, quella dei pazienti che non hanno una diagnosi virologica certa, hanno una sintomatologia compatibile con una polmonite da Covid-19 e in particolare hanno una TAC suggestiva, ovvero una TAC che dimostra la presenza di una polmonite che è clinicamente evidente, ma il virus che non si trova. Come vanno trattati questi pazienti in questo momento? Questi pazienti vanno trattati come se fossero Covid-19 positivi a tutti gli effetti. Quindi strada facendo poi si cerca di confermare o negare questo tipo di diagnosi, in qualche modo di far diventare questo grigio o nero o bianco, e non sempre questo è possibile. Spesso, comunque a volte, si trova una diagnosi alternativa, in quel caso il Covid-19 viene escluso. Non di rado bisogna aspettare che la malattia se ne vada da sola, nel caso del Covid-19 questo accade frequentemente. Quindi effettivamente Alessandro tocca un punto di incertezza in qualche modo, che stiamo ancora studiando. Professore, le Marche, insieme alla Lombardia, saranno le regioni in cui verosimilmente l'assenza di nuovi casi si potrà verificare non prima della fine di giugno. Insomma, secondo le proiezioni fatte dagli esperti dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle regioni, e sottolineo, parliamo di proiezioni, le due regioni, Marche e Lombardia, saranno le ultime a liberarsi dal Covid. È curioso però, professor Tavio, che regioni così diverse condividano la stessa sorte. Forse questa strana coppia potrebbe suggerirci, magari, che ne so, delle riflessioni, delle valutazioni sull'impatto dei fattori sulla diffusione del contagio e anche sulla lentezza in cui i casi calano, diminuiscono? Guardi, io prenderei con molta attenzione i modelli matematici, che hanno il pregio di essere molto molto precisi, ma molto rigidi. Per cui cambiando le condizioni con le quali sono stati concepiti questi modelli, poi si hanno dei risultati molto diversi. Allora, prendiamo questo dato come un dato suggestivo che ci stimola a continuare ad avere comportamenti di grande attenzione, ma non prendiamolo come oro colato e soprattutto non pensiamo che questo condizioni le scelte di politica sanitaria, ovvero le scelte di politica sanitaria hanno bisogno non tanto di un giorno X in cui avremo zero contagi, hanno bisogno di una linea di tendenza, e la linea di tendenza è costantemente in senso favorevole in tutte le regioni, Lombardia e Marche incluse. Incluse. Professore, ci fermiamo, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi le rubo ancora 2 minuti per i due vero e falso, e poi insieme al professor Bandello, che saluto, che è già in linea con noi, affrontiamo la fragilità nella fragilità delle persone che soffrono di una malattia della retina. Che cosa sta succedendo in questo momento, quali attenzioni e precauzioni, che cosa si sta pensando per queste persone? A tra poco. Obiettivo Salute Weekend. Siamo tornati, Obiettivo Salute insieme a voi. Oggi insieme a noi il professor Marcello Ottavio, presidente della CIMIT. Professore, andiamo al nostro vero e falso di oggi. Il sudore può essere un veicolo di trasmissione, vero o falso? Falso. Dobbiamo sempre stare attenti a quello che è possibile in teoria ma che non si verifica mai in pratica. Questo è un esempio abbastanza chiaro. Fare gargarismi e lavaggi nasali può aiutare a prevenire o ostacolare l'infezione da coronavirus? La risposta è no. Quindi no. Falso, nel senso che non aiuta. E attenzione al tipo di sostanze che vengono utilizzate, perché se indeboliscono le mucose non solo non proteggono ma potrebbero anche favorire. Professor Ottavio, grazie per essere stato con noi, ci sentiamo presto. Il vero e falso con gli esperti della CIMIT continua ogni giorno, intanto la ringrazio e le auguro un buon lavoro. Grazie. Grazie anche a voi. Come anticipato, il focus dedicato a chi sta vivendo un'emergenza nell'emergenza è dedicato a chi soffre di una delle malattie della retina. In linea con noi il professor Francesco Bandello, che è primario dell'unità di oculistica del San Raffaele di Milano e ordinario di oftalmologia. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi, professore. Allora, malattie della retina, ma noi a chi ci rivolgiamo nello specifico, professor Bandelli? Allora, le malattie della retina colpiscono, ahimè, nella maggior parte dei casi, delle persone che sono avanti negli anni. Ce n'è una in particolare che si chiama degenerazione maculare legata all'età, che è tipica delle persone che hanno un'età relativamente avanzata. Lo stesso vale anche per il diabete, che è una malattia oramai presente nella grande maggioranza dei casi nella sua forma non insulino dipendente e che affligge le persone anche qui che sono relativamente avanti negli anni. Quindi quando noi consideriamo il complesso delle malattie retiniche che possono essere curate con le iniezioni intravitreali, facciamo riferimento a una popolazione di persone che sono avanti negli anni e che hanno mediamente una condizione di fragilità, come in questo periodo è noto a tutti. Prego. Professore, le malattie della retina sono malattie che richiedono cure tempestive e reiterate. Sì. Ecco, che cosa sta succedendo in queste settimane di isolamento, professore? E allora una caratteristica appunto di queste malattie è quella che per essere curate adeguatamente, oggi riusciamo a farlo, bisogna reiterare delle procedure di iniezione intravitreale. Si mette un farmaco all'interno dell'occhio, questa cosa viene ripetuta, ma perché queste terapie siano efficaci bisogna che la reiterazione della procedura, cioè la nuova iniezione, venga fatta secondo dei calendari, delle agende che sono ben definite. Bene, quello che è accaduto da che è scoppiata la pandemia è che il numero dei pazienti che si presentano presso i nostri centri per eseguire questi trattamenti ha subito una drastica riduzione. Siamo intorno al 10% circa, ma adesso forse un po' risalito al 15-20% il numero dei pazienti che rispettano gli appuntamenti. C'è quindi un grandissimo numero di persone, che è circa l'80% di quelle che facevano le terapie, che al momento attuale stanno saltando gli appuntamenti, non stanno eseguendo i trattamenti come previsto Ed è facile immaginare che queste malattie stiano producendo a queste persone un danno irreversibile. Perché irreversibile? Perché purtroppo la retina, costituita da cellule perenni, quando subisce un danno non può essere riparata, non può tornare alla condizione precedente. Il risultato di questo discorso è che questo grandissimo numero di persone, parliamo solo del mio centro, sono svariate migliaia già, stanno subendo una riduzione visiva in modo irreversibile, e questo purtroppo lo scopriremo, temo, tra qualche mese, quando la pandemia non sarà più quello che è oggi, non comporterà più i problemi che sta comportando oggi, e i pazienti potranno tornare. Allora, prego. Sì. Volevo chiederle, professore, quali sono i sintomi a cui un paziente affetto da una malattia della retina deve prestare attenzione? I sintomi sono fondamentalmente due: vedere meno e vedere storto, vedere deformato. Queste sono le due cose che devono portare il paziente dal medico, dall'oculista, devono spingerlo a sollecitare un intervento dell'oculista. Allora, quello che io raccomando prima di tutto a noi oculisti è di impegnarsi in tutti i modi, perché il proprio ospedale, il proprio centro, la propria clinica, qualunque sia il posto dove l'oculista esercita la sua attività, diventi una struttura che garantisca ai propri pazienti un percorso libero dal rischio di contagio. Quando questo è stato fatto, bisogna che noi ci attiviamo per richiamare i nostri pazienti, rasserenarli, rassicurarli e far sì che loro possano tornare prima possibile a fare quei trattamenti che sono indispensabili perché loro mantengano il proprio patrimonio visivo. È vero che di malattia agli occhi non si muore, però è anche vero che vivere con un grave handicap visivo, come dimostrano tutti gli studi che sono stati fatti sull'argomento, è la peggiore delle condizioni che il paziente teme di dover vivere. Quindi impegniamoci noi oculisti da una parte e gli amministratori, gli organizzatori delle nostre attività dall'altra, per creare i presupposti perché i nostri pazienti oculistici possano tornare a curare le proprie malattie retiniche prima possibile. Quindi l'invito, professor Bandello, alle persone, ai pazienti e anche ai familiari dei pazienti, perché lei ha detto si tratta di pazienti spesso anziani, è di rivolgersi all'oculista di riferimento, di chiamare il centro. È fisiologico, è normale, professor Bandello, in questo periodo avere paura di recarsi in ospedale. Abbiamo proprio trattato il problema di chi soffre di malattie cardiovascolari. La Società Italiana di Cardiologia aveva proprio rilevato che ci sono meno ricoveri, arrivano meno persone con infarto in ospedale, ma purtroppo gli infarti continuano a esserci. E in un certo senso noi stiamo stiamo rendendoci conto che le malattie, nonostante il Covid, esistono, professore. Alcune di queste non possono essere dimenticate. Dal canto nostro, noi come pazienti, come persone che magari viviamo quotidianamente con una compagna di vita che può essere una malattia cronica, spesso siamo un po' disorientati, non sappiamo a chi rivolgerci e come vincere la nostra paura. Professore. Sono assolutamente d'accordo, io parlo con colleghi che mi dicono che gli infarti arrivano oramai in fase terminale, gli ictus arrivano quando non c'è più nulla da fare, ed è così purtroppo anche con le malattie agli occhi. Io credo che l'impegno nostro, oramai che si intravede una fase sicuramente di declino dell'infezione, anche se qui purtroppo a rilento, qui in Lombardia, però ci debba tutti indurre a riorganizzare le nostre attività, perché è vero anche che non è più possibile immaginare che il nostro esercizio della professione medica possa continuare a realizzarsi come una volta, con sale d'attesa che erano delle bolge dantesche, piuttosto che con realtà ambientali che non possono più essere considerate compatibili con tutto quello che ci ha fatto apprendere la pandemia, no? Tutto quello che abbiamo imparato durante queste ultime settimane dovrà rappresentare un patrimonio di conoscenze che ci aiuterà a organizzare in un modo differente le nostre attività, con il dovuto rispetto di tutti quei criteri, quei principi che in passato nessuno considerava e che invece oggi sembra indispensabile